Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quel racconto ha moltissime cose che lo rendono insopportabile. Prima di tutto il fatto di non negare dal primo istante all'ultimo, di non rinnegare il padre, di non dichiarare che la mafia è esistente e dare sostanzialmente dall'inizio alla fine un'intervista da mafioso, perché questo è quello che il signor Riina ha fatto, ha dato un'intervista da mafioso. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è stato in breve, naturalmente è stato più lungo, il commento di Monica Maggioni, presidente della RAI, a proposito della contestata puntata di Porta a Porta di ieri sera, in cui Bruno Vespa ha intervistato il figlio del boss di Cosa Nostra, dottorina. Il figlio si chiama Salvo, ha scritto un libro, non so chi di voi l'ha seguito, però sicuramente ieri voi avete scritto in moltissimi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, che è sempre per voi il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Ieri opinioni naturalmente vostre opposte, chi riteneva che fosse comunque il servizio pubblico non fosse opportuno far passare certe cose, certe interviste, e altri che hanno detto l'informazione deve essere libera, sono più le modalità che contano e non tanto i contenuti. Potete continuare a scrivere su questo tema stasera se volete, non ho un tema particolare oggi eccezionalmente da sottoporvi se non questo, perché diciamo la gran parte delle notizie anche sono degli sviluppi di quelle di questi giorni. Per esempio torneremo sulla questione sull'inchiesta del petrolio della Procura di Potenza, perché oggi è stata una giornata importante. L'ex ministra Guidi, che si è dimessa il 31 marzo, ex ministra dello sviluppo economico, oggi è stata ascoltata dai magistrati come persona informata sui fatti. Che cosa ha detto? Diciamo che i documenti sono stati criptati, la sua deposizione, però sicuramente ha sottolineato, mi hanno detto che sono parte offesa, e capiremo che sviluppi, che possibili anticipazioni, indiscrezioni ci sono su questo interrogatorio, su questa inchiesta. Poi parleremo finalmente del referendum, tanti lo chiedono, è anche naturalmente doveroso in vista del 17 aprile, il referendum sulle trivellazioni, per capire qual è la posizione del sì, qual è la posizione del no, dell'astensione. Magari riuscite a farvi, mi auguro, questo è l'obiettivo, a farvi un'idea più precisa di quale possa essere la vostra opinione. E poi ci occuperemo anche degli allarmi, il doppio allarme di Draghi, della Banca Centrale Europea, il Presidente della Banca Centrale Europea di oggi, che ha detto da una parte che l'Europa non sa se potrebbe riuscire ad affrontare altri eventuali shock economico-finanziari che potrebbero esserci, e dall'altra ha detto qui si rischia una lost generation, si rischia con la crisi, la disoccupazione giovanile, che è un problema grave in tutta Europa, di perdere un'intera generazione. Potete anche commentare questi fatti, basta che siano fatti di interesse collettivo e attuale. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Come sempre, prima di tutto, un riassunto della giornata. L'inchiesta sul petrolio, l'ex ministra Guidi interrogata per 3 ore dai PM di Potenza dice: mi hanno detto che sono parte lesa. L'intervista di Vespa al figlio di Riina, i vertici RAI nell'audizione all'antimafia assicurano da settembre ci sarà la supervisione dei contenuti giornalistici. I timori di Draghi, l'Eurozona avverte il presidente della BCE, vulnerabile a nuovi shock, e rinnova l'allarme sui giovani disoccupati, si rischia di perdere una generazione. Il vertice su Regeni a Roma, primo giorno di confronto fra inquirenti italiani ed egiziani che portano video e tabulati, domani si replica. Lo scandalo Panama Papers, il primo ministro britannico Cameron ammette: avevo una quota nella società di mio padre, ma la vendetti per 30.000 sterline prima di diventare premier. Migranti, l'Austria lancia l'allarme, 300.000 persone verso l'Italia. Finmeccanica in appello, 4 anni e mezzo all'ex presidente e amministratore delegato Orsi e 4 all'ex AD di Augusta Westland Spagnolini, responsabili anche di corruzione internazionale. Meteo, in arrivo un peggioramento, piogge e crollo delle temperature di 8 gradi in meno, ma prossima settimana nuova ondata di caldo anomalo. Formula 1, retromarcia della FIA, dal Gran Premio in Cina tornano le vecchie qualifiche. Partiamo quindi dall'inchiesta della Procura di Potenza sul petrolio su Tempa Rossa. Oggi l'ex ministra Guidi è stata interrogata, vi dicevo, per 3 ore dai PM di Potenza e lei ha fatto sapere, mi hanno detto che sono parte lesa. Più tardi poi qui a Effetto Notte entreremo più nel dettaglio di quello che si sa di questa inchiesta, perché come vi dicevo la sua deposizione è stata secretata. Passiamo però intanto alle reazioni politiche. Matteo Renzi non parla deciso a non commentare l'inchiesta di Potenza, né tantomeno le intercettazioni di Federica Guidi, soprattutto dopo le polemiche dei giorni scorsi con la magistratura. Ma a Palazzo Chigi il nervosismo sembra tagliare l'aria. Le intercettazioni parlano del cosiddetto giglio magico. Ministri come Graziano Del Rio e Piercarlo Padoan e sottosegretari come Luca Lotti e Claudio De Vincenti che controllano tutto quasi. Ci sono poi le due mozioni di sfiducia all'intero governo che, tra proteste e cautele, la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha fissato due giorni dopo il referendum sulle trivelle. Ma il vice segretario PD Lorenzo Guerini non crede a contraccolpi per l'esecutivo. Noi siamo impegnati a governare il paese, a fare le riforme di cui l'Italia ha bisogno. Se loro si vogliono impegnare a giocare con le mozioni, facciano pure. I 5 Stelle però continuano ad attaccare. Beppe Grillo chiede l'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella. Mattia Fantinati, deputato grillino in commissione attività produttive. Siamo arrivati ad un punto in cui il governo è fermo, non riesce a prendere più nessuna decisione perché c'è uno scandalo ogni altro giorno, che il presidente Mattarella, garante della Costituzione, si renda conto della situazione, intervenga e faccia qualcosa. Sono gli italiani che glielo chiedono. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi l'altro caso motivo di polemica, l'intervista di Vespa al figlio di Totò Riina, ieri intervistato Porta a Porta, oggi c'è stata l'audizione dei vertici RAI in commissione antimafia. Un'intervista da mafioso. Questo è quello che il signor Riina ha fatto. Parla così la presidente RAI Monica Maggioni all'indomani della messa in onda Porta a Porta dell'intervista al figlio di Totò Riina, da lei definita un racconto insopportabile. Tuttavia, ha sottolineato Maggioni, rispondendo a Rosi Bindi, in RAI non vi è nessun tipo di negazionismo della mafia, come dimostra la programmazione da decenni. In audizione, in commissione antimafia, anche il direttore generale della TV pubblica, Campo Dall'Orto. È stata una decisione delicata, ha detto, spiegando che il via libera alla messa in onda dell'intervista, dopo un confronto, è stata data dal direttore editoriale dell'informazione Verdelli. Credo che il compito mio non sia ovviamente di essere né censore né essere l'ultimo decisore di tutto. Dall'Orto ha poi annunciato, a partire dal 1 settembre, l'avvio di una supervisione dei contenuti giornalistici in RAI, non solo nei TG, ma in qualunque programma essi siano. Ha anche assicurato che per l'intervista non sono stati fatti pagamenti, dopo la domanda di Rosi Bindi. Quali sono state le condizioni poste da Riina per rilasciare l'intervista? È stata gratuita? Quale conoscenza della mafia rivendicata dal conduttore in apertura di trasmissione si pensava di offrire con un'intervista già concordata? Quanto alla liberatoria firmata da Salvo Riina solo dopo aver visto l'intervista, il presidente del Senato Grasso ha dichiarato: segno di grande rispetto della RAI che tratta Riina meglio di me, visto che la firma per la liberatoria io la devo mettere prima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi l'annuncio di Renzi sulla banda larga che ci sarà entro il 2020 in tutta Italia, ha detto. L'Italia ha come obiettivo da qui al 2020 di coprire il 100% a 30 megabits e arrivare al 50% di abbonamenti a 100 megabits. Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi alla presentazione del piano sulla banda larga insieme all'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. Quanto alle risorse pubbliche, Renzi ha citato i 4 miliardi e 900 milioni del CIPE, di cui 3 miliardi e mezzo già stanziati, e ne ha approfittato per ribadire la sua strategia. Siamo qui per sbloccare le opere, compresa la banda larga, che è una delle più importanti. Nel piano del governo sulla banda larga, Enel avrà un ruolo strategico grazie alla capillarità della sua rete elettrica. L'amministratore delegato, Francesco Starace. L'utilizzo di questa infrastruttura per portare i cavi di fibra ottica darà grandi benefici. A fare da apripista sarà Perugia, dove i primi abbonamenti saranno disponibili entro maggio grazie all'intesa siglata con Wind e Vodafone. Ma a partire subito saranno anche Catania, Cagliari, Bari e Venezia. Il piano nazionale punta a portare la banda larga in 7 milioni e mezzo fra abitazioni, aziende e industrie localizzate in 224 città. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo adesso ai timori di Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea. Nel rapporto 2015 sulle attività della BCE, il presidente Draghi ha avvertito che l'eurozona è vulnerabile a nuovi possibili shock e ha rinnovato questo allarme. Quanto riguarda i giovani disoccupati, dice, si rischia di perdere una generazione. Due timori che appaiono, diciamo, piuttosto inquietanti, ma cercheremo poi di capire quali sono i reali rischi con un ospite. Per quanto riguarda le borse, Milano è stata la peggiore del vecchio continente, col FTSE MIB che ha chiuso a meno 2,45%, trascinata a ribasso da tutto il settore bancario. E oggi a Roma c'è stato il vertice sul caso Regeni, la prima giornata di questi incontri tra investigatori egiziani e inquirenti italiani sul caso del giovane ricercatore friulano. Un primo incontro, quello di oggi, durato 5 ore. Le parti torneranno a vedersi domani, sempre alla Scuola Superiore di Polizia. Al termine del vertice, un comunicato congiunto illustrerà i risultati raggiunti. Secondo fonti della Procura, lo scambio di informazioni, per quanto laborioso, sarebbe iniziato. La parte italiana, rappresentata dal procuratore di Roma Pignatone e dai vertici dello SCOE e del ROS, avrebbe illustrato i risultati dell'autopsia eseguita sul ricercatore universitario e sarebbe stato esposto quanto emerso dall'analisi del suo computer. La delegazione egiziana invece avrebbe aggiornato i titolari dell'inchiesta romana sull'attività svolta nelle ultime settimane, in particolare dal 14 marzo in poi, quando lo stesso Pignatone si recò al Cairo. Il dossier portato in Italia conterrebbe, secondo la stampa egiziana, comunque i dati più importanti della vicenda: le registrazioni delle videocamere di sorveglianza, un registro delle chiamate del telefono portati le diregeni, il rapporto di medicina legale sull'autopsia e le testimonianze di ufficiali e amici della vittima. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma. Prosegue lo scandalo Panama Papers. Il primo ministro britannico Cameron ammette: avevo una quota nella società di mio padre, visto che nei documenti è stato fatto anche il suo nome, ma dice: ma la vendetti per 30.000 sterline prima di diventare premier, quindi non ho nulla da nascondere. L'attualità, quella dei Panama Papers. Questo che sentite invece il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, che dice: le rivelazioni sul Panama Papers mi hanno scioccato, è immorale, non etico, inaccettabile, gli importi sono davvero scioccanti, e ha detto: bisogna dire che i paesi che non cooperano sono paradisi fiscali, dobbiamo elencarli con una lista nera comune ed essere pronti a sanzioni se non cambiano i comportamenti, ha aggiunto. Poi sul fronte interno, domani l'Espresso pubblica i nomi dei 100 italiani coinvolti in questo scandalo dei soldi, dei fiumi di soldi portati all'estero, in società offshore, come si dice, in paradisi fiscali. Respingono ogni coinvolgimento, però, per il momento, per quanto riguarda gli italiani citati, Carlo Verdone e Barbara D'Urso. Siamo anche a parlare, come sempre, di migranti. Oggi è stato l'allarme dell'Austria, che allerta l'Italia, dice: attenzione, ci sono in arrivo 300.000 persone. E intanto è stata confermata la visita del Papa a Lesbo. Sale la tensione al confine tra Austria e Italia. Viene la minaccia di blindare il Brennero anche con la forza militare. Il vostro paese, avverte la ministra dell'interno Johanna Mikl-Leitner, non può contare sul fatto che il valico resti aperto se si arriva a flussi incontrollati di migranti. E questi flussi ci saranno, secondo l'Austria, che stima per il 2016 300.000 migranti in rotta verso l'Italia, il doppio rispetto ai 150.000 dello scorso anno. Migranti economici dal Nord Africa e non solo siriani con diritto di asilo. L'Italia deve comprendere che lascia passare non risolve i problemi ma li aumenta, ammonisce anche il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz, confermando la data del 1 giugno per l'inizio dei controlli, ma aggiungendo che questi potrebbero essere evitati se l'Europa introducesse veri controlli lungo i propri confini esterni. Un tema che sarà al centro di un colloquio domani tra il ministro degli interni austriaco e il collega italiano Alfano. Il Vaticano intanto conferma la visita di Papa Francesco a Lesbo il 16 aprile. L'obiettivo è portare sollievo ai rifugiati e chiamare alla solidarietà e alla responsabilità tutte le comunità dei credenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma. Per la cronaca giudiziaria, l'ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi e l'ex amministratore delegato di Augusta Westland Bruno Spagnolini sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e mezzo e a 4 anni in appello a Milano nell'ambito del processo con al centro presunte tangenti per un appalto di 560 milioni di euro per la vendita al governo di Delhi, al governo indiano, di 12 elicotteri. Le accuse sono di corruzione internazionale e false fatturazioni. Notizie dal meteo: il caldo anomalo di questi giorni si prende una breve pausa, infatti in arrivo una veloce perturbazione che, oltre a portare piogge, farà scendere fino a meno 8 gradi, non nel senso meno 8, nel senso di 8 gradi le temperature. Sarà però solo una pausa rapida, perché nel fine settimana, in particolare da domenica prossima, si prevede un graduale miglioramento e un'altra ondata di caldo. Formula 1, c'è il via libera tra i team e la Federazione Internazionale. Dal Gran Premio della Cina viene abolito il nuovo format delle prove per la pole position a eliminazione, visto in Australia e in Bahrain. Torna quindi in vigore il sistema dell'anno scorso. Per chiudere, un po' di musica. Chiedi di nascere, tu chiedi un'istruzione, chiedi lavoro. E questo è il nuovo album Alt di Renato Zero. C'è di tutto dentro: la fede, il lavoro, la politica, anche una riflessione sull'economia. Sentiamolo al microfono di Marta Cagnola. Oggi ritengo che un'operazione che debba essere fatta, a mio parere, e soprattutto moderare un pochino l'aggressione del fisco. Se questa categoria di persone riesce ad accrescere il loro fatturato, bisognerebbe premiarli, bisognerebbe dirgli, piuttosto che farti diventare un potenziale evasore fiscale e al limite, dopo di questo, addirittura di mettere per strada tutte queste famiglie, io ti voglio premiare e ti riduco l'imposta. Credo che il modo di annullare e di annientare il sospetto sia proprio cercare di dimostrare agli altri che siamo disponibili al dialogo e all'accomodamento. E siamo disponibili al dialogo sempre qui a Effetto Note, io con voi, voi con me, il 349-238-6666 che è il numero per gli sms e per i whatsapp, oppure la pagina Facebook di Effetto Note, che lo sapete, sempre lì per voi giorno e notte. E continuano i vostri messaggi su la puntata controversa di Vespa con il figlio di Totorina. Rosalba scrive: la mafia è una montagna di merda. Io sono completamente d'accordo con Borsellino, il fratello di Borsellino, che ha detto: è come uccidere una seconda volta mio fratello. Walter scrive: tutto fa spettacolo. Ilaria dice: non nascondiamoci però dietro un dito. Emi, i soldi per il canone sono buttati nel cesso, dice senza un giro di parole. Luciano: ne abbiamo visti tanti in TV, uno più uno meno, però Vespa doveva chiedere il permesso alle vittime della mafia prima. Poi Mario da Bergamo: se Vespa non dovesse più intervistare mafiosi, e non mi riferisco a quelli di professione tipo Rina, dovrebbe chiudere a buon intenditor. Ancora un altro messaggio: se Totò Riina attraverso il figlio può entrare nelle case degli italiani, tanto più l'illegalità di componenti del governo potrà essere giustificata. Non a caso la Guidi oggi si dichiara parte lesa. Ma dice paese ridicolo questo ascoltatore, però è anche un altro ascoltatore, dice: la Guidi parte lesa, ma mi faccia ridere. Però se gli inquirenti al momento dicono così, mi sembra, insomma, che sarà giudicata poi dai magistrati, no? Ne parliamo tra l'altro più tardi qui a Effetto Notte. Intanto prendiamoci una pausa per aggiornare chi viene. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Prima di ricordarvi brevemente le notizie più importanti e di cominciare a entrare nel cuore dei vari argomenti, tra poco cercheremo di fare anche un po' di informazione sul referendum del 17 aprile, però volevo leggere ancora qualche messaggio che sta arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre al numero 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp, sempre sulla controversa puntata di Porta a Porta. Susi da Roma dice: vergogna l'intervista al mafioso condannato Riina, salvo pur di fare audience si fa al di là di ogni pudore, dice. Poi invece Vincenzo: e se invece nessuno ne parlasse, si punterebbe ad intervistare personaggi equivoci per far cassetta? Questa è la lettura di Vincenzo. Intanto io vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. L'ex ministra Guidi a Potenza, ascoltata dai PM: ho risposto e sono parte offesa. Mentre intanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio dice: non sono stato mai ricattato perché è venuto fuori il suo nome, poi ne parleremo e capiremo in quali termini. Al via oggi il vertice di due giorni, ma forse potrebbe essere allungato, sul caso Regeni. Gli egiziani portano video e tabulati, c'è stato un primo scambio di informazioni. Poi bufera sulla RAI per l'intervista di Vespa a Riina: da settembre, annunciano i vertici della RAI, ci sarà una supervisione dei contenuti giornalistici. Vienna avverte Roma: chiudiamo il Brennero, ci sono 330.000 persone in arrivo. E poi il Papa conferma che sarà nell'isola di Lesbo, simbolo di questo flusso di migranti, il 16 aprile. Panama Papers: VIP italiani si difendono, nessun illecito. L'Unione Europea si dice scioccata per questo scandalo. E poi Draghi con le sue preoccupazioni, dubbi sulla tenuta dell'Unione Europea di fronte a nuovi shock. Borse negativo, Milano è quella che ha avuto proprio la maglia nera. E poi Renzi, che oggi ha lanciato il piano banda larga, entro il 2020 ci sarà in tutte le città, dice: e questo scandalo degli affitti da 3 euro alla Reggia di Caserta. Allora, vediamo se adesso riusciamo a fare un po' di chiarezza, almeno per quelle che sono le posizioni contrapposte, sul referendum relativo alle trivellazioni che ci sarà domenica 17 aprile. Tra l'altro, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, a chiedere questo referendum sono state le regioni, 9 regioni: Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, invece che, come avviene di solito, attraverso una raccolta di firme. Si tratta del cosiddetto referendum NoTriv, come è stato nominato più volte, una consultazione per decidere se vietare il rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa italiana. Il quesito referendario è praticamente: volete che quando scadranno le concessioni vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c'è ancora gas o petrolio? E il quesito riguarda solo la durata delle trivellazioni già in atto e entro le 12 miglia dalla costa, non riguarda quindi le attività petrolifere sulla terraferma né quelle in mare che si trovano a distanza superiore alle 12 miglia. A favore del sì, cioè di decidere di vietare un ulteriore allungamento delle concessioni, sono Movimento 5 Stelle, Lega Nord, SEL, Italia dei Valori, è possibile che il Movimento di Civati, i Verdi e poi le varie associazioni WWF, Legambiente, Greenpeace. Il PD invece è per l'astensione, come Renzi ha detto più volte, con però la minoranza del Partito Democratico molto in fibrillazione su questo. Abbiamo seguito un po' tutti i passaggi politici in questi giorni. Il centrodestra, diciamo che non ha preso una posizione specifica, chiarissima, è un pochino in ordine sparso, tendenzialmente verso il no. Questo referendum però non è stato espresso dai vari partiti una precisa indicazione per i propri elettori, per la propria base. Ne parliamo con Piercamillo Falasca, che è economista tra i promotori del Comitato Ottimisti e Razionali a favore dell'astensione. Buonasera Falasca. Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori. E buonasera Enzo Di Salvatore, che è costituzionalista e tra i fondatori del movimento No Triv. Buonasera anche a lei Di Salvatore. Buonasera a tutti. Allora, io chiedo ai miei ospiti entrambi di essere sintetici, ma di spiegare in modo chiarissimo la loro posizione, in modo schematico, chiaro, in modo che le ascoltatrici e ascoltatori si facciano la loro idea e poi il 17 aprile decidano se votare sì, se votare no, se astenersi, eccetera. Piercamillo Falasca, quindi movimento a favore, comitato a favore dell'astensione. Perché? Sì, perché questo referendum è a nostro parere una grande bugia. Non si sta discutendo se, come dire, aumentare la quota di energie rinnovabili e ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, come purtroppo buona parte della campagna per il sì tende a far credere. Non si tratta peraltro di trivelle, perché non c'è nulla da trivellare. Entro le 12 miglia già oggi lo Stato vieta di cercare e sfruttare nuovi giacimenti, cosa possibile oltre le 12 miglia o a terra, ma non entro le 12 miglia. Il referendum riguarda invece piattaforme estrattive, prevalentemente di gas naturale, che già esistono ed esistono da decenni nel nostro paese, che producono ricchezza, 750 milioni di euro di PIL, il valore della produzione 2014, 11.000 persone che lavorano direttamente nel settore delle piattaforme, insomma, che diventano 31.000 contando l'indotto. È un settore importante italiano, è un settore che produce ricchezza, il gas naturale è un'energia sicura, pulita, che conosciamo. L'unico effetto di una eventuale vittoria del sì, sciagurata per quanto ci riguarda, sarebbe la necessità nei prossimi anni di importare più gas e petrolio dall'estero. Estero vuol dire Russia, paesi arabi, contesti complicati. E tutto ciò farebbe soltanto aumentare la nostra dipendenza energetica come paese da queste realtà. Non ci conviene. Questo referendum, secondo noi, è un rischio economico, produttivo, è un rischio ambientale, perché importare di più vuol dire avere più navi petroliere che attraversano i nostri mari, ed è un rischio democratico. Noi siamo per l'astensione per tutelare la democrazia, perché illudere i cittadini che stiano votando a favore delle fonti rinnovabili e contro il petrolio vuol dire prenderli in giro due volte, sul quesito e su quello che avverrà dopo. Chiarissimo, Piercamillo Falasca, 2 minuti esatti ha avuto, poi magari ci ritorniamo. Invece Enzo Di Salvatore, quindi possiamo dire che la posizione di chi è per l'astensione, per far proprio fallire il quorum, non far neanche rendere valido il referendum, però è diciamo sovrapponibile al no, mentre Enzo Di Salvatore per il sì. Perché? Dunque, io personalmente noto che Falasca è poco informato, perché in realtà il quesito riguarda la durata delle concessioni, ma si collega ovviamente a un divieto che già esiste, cioè di rilascio di nuove concessioni. Ma quello che invece la norma attualmente in vigore non vieta è che a partire dalle concessioni già in essere, sto parlando di 45 concessioni, si possano esattamente installare nuove piattaforme e trivellare nuovi pozzi, se il programma di sviluppo del giacimento lo abbia previsto. E per non rimanere sul piano della teoria, ma quindi per non rimanere nell'alto dei cieli, ma scendere appunto sulle questioni concrete, basta andare ad aprire le 45 concessioni. E cosa si scopre? Che per esempio la Edison nel canale di Sicilia ha chiesto e ha ottenuto già il decreto di compatibilità ambientale di poter installare la seconda, che sarà la più grande piattaforma che avremo nell'offshore, che si chiama Vega B, il cui progetto prevede la perforazione di 4 nuovi pozzi al momento, 8 pozzi successivi, sempre nel canale di Sicilia. Una società petrolifera, in questo caso l'ENI, chiede di poter realizzare una nuova piattaforma che si chiama Prezioso K, sempre entro le 12 miglia, questa volta di fronte alle coste abruzzesi. La società petrolifera, che ha in concessione Rospo Mare, chiede di poter trivellare 3 nuovi pozzi, eventualmente un quarto, e così via di seguito. Cioè, noi non possiamo ragionare così in teoria, ma dobbiamo andare a aprire queste concessioni. Quindi, per rispondere alla, diciamo, all'obiezione che viene mossa, è che in realtà ci sarebbe già il divieto. Certo, il divieto riguarda il rilascio delle future concessioni. Nessuno può chiedere più una futura concessione. Ma se io ho una concessione già attiva in essere, a partire da quella concessione, proprio perché il giacimento è ancora utile, quindi lo sfrutto fino in fondo, in realtà io posso effettuare nuove trivellazioni. Chiarissimo. Questo... Di Salvatore, 2 minuti anche lei. Adesso chiedo ancora 2 minuti a testa, poi vi devo proprio lasciare, sarebbe 1 minuto e mezzo, però Pier Camillo Falasca vuol rispondere, poi dopo Di Salvatore, poi dopo devo chiudere. Guardi, noi crediamo minuti, che gli italiani capiranno in maniera molto chiara che di fronte ci sono delle opzioni assolutamente diverse. Da un lato il nostro pragmatismo, dall'altra parte delle motivazioni, a nostro parere, ideologiche e in alcuni casi politiciste. Il pragmatismo è di chi chiede all'Italia di ricordarsi di essere un paese che ha tecnologia, che esporta, capace, come dire, di competere nel mondo, nel grande settore dell'energia. Da poche pozzanghere di gas naturale, l'ENI, che è una società pubblica, ricordiamo, di Enrico Mattei, ha costruito un know-how che oggi è fortissimo nel mondo. Pensiamo alla piattaforma Goliat in Norvegia, la più grande e sofisticata unità galleggiante di estrazione del mondo. Ricordiamo che l'Italia non è un paese all'anno zero sulle rinnovabili, anzi siamo dei leader in Europa. Abbiamo una quota di gas naturale così importante e abbiamo così poco carbone, a differenza della Germania. Il carbone è ciò che inquina. Non siamo all'anno zero sulle rinnovabili, si può e si dovrà fare di più, ma la transizione è lunga e abbiamo bisogno nei prossimi anni anche della nostra produzione nazionale di gas naturale, anche quella entro le 12 miglia. Non dobbiamo rinunciare, non dobbiamo far vincere l'Italia del no a tutto, perché noi possiamo vincere la sfida della competizione globale anche attraverso la nostra tecnologia. Questa è la nostra visione e con queste motivazioni noi chiediamo agli italiani di scegliere di non votare il 17 aprile e di non sprecare la nostra energia nazionale. Benissimo. Enzo Di Salvatore, anche lei ha 2 minuti precisi, poi sì, si apre la botola sotto la mia sedia. Sì. Sì, no, ma vedo che qui si sta fraintendendo, perché in realtà di quale energia, cioè quando si dice non sprechiamo l'energia, di quale energia nazionale si sta parlando? Io vorrei far presente che con l'atto di concessione, quello che appartiene, che è un bene comune, e parlo delle risorse energetiche che al momento ci sono, appartengono quindi a tutti, alla collettività, ma con l'atto di concessione le società petrolifere vengono immesse nella proprietà, quindi tutto ciò che è estratto, gas o petrolio che sia, appartiene al 100% alla proprietà di chi lo estrae, che può rivendercelo, può portarlo altrove, e in termini di restituzione, ma soltanto dal punto di vista economico, sono tenute veramente a versare le casse dello Stato 4 briciole. Quindi quando si dice, ma in realtà se noi dovessimo rinunciare al petrolio e al gas presente attualmente nelle 12 miglia marine, io vorrei ricordare che l'incidenza di ciò che compriamo, quindi gas e petrolio, è pari per il petrolio all'1% e al 2% per il gas. Anzi, mi correggo, lo 0,8% di petrolio al momento esistente. Questo per dire che non c'entra niente il fatto del fabbisogno energetico nazionale, non c'è nessun collegamento. Noi, cioè, non è che se rinunciamo a questo dobbiamo comprarlo altrove, noi comunque lo compriamo. Quindi noi stiamo... Diciamo così, dobbiamo collegare il ragionamento delle estrazioni alla ratio, cioè alla ragione per cui abbiamo deciso di vietare entro i 12 miglia marine qualsiasi tipo di attività. Allora bisogna essere coerenti. Perché? Perché il governo Monti ha deciso di vietare entro i 12 miglia marine l'estrazione di qualsiasi tipo di idrocarburo e il governo attualmente in carica ha deciso di bloccare i 27 procedimenti che erano in corso. Domandiamoci perché. Perché si legge nelle relazioni istruttive e decreti che vi sarebbero gravi ragioni di carattere ambientale. Quindi, per essere coerenti, o queste gravi ragioni di carattere ambientale ci sono sempre o non ci sono mai. Ecco perché diciamo di andare a votare sì, perché progressivamente dobbiamo liberare il mare territoriale da questo tipo di attività. Dopodiché questo referendum non incide, l'ha detto lei prima, né sulle questioni, sulla questione delle attività estrattive in terraferma, né oltre 12 miglia marine. Chiarissimo. Ma... Enzo Di Salvatore, Pier Camillo Falasca, ringrazio entrambi. Ricordo che poi Radio 24 con i giornali radio, con le varie trasmissioni, fino al 17 aprile continuerà a informare. Grazie di nuovo Falasca e Di Salvatore. Buon proseguimento. Grazie a voi. Prima di lasciarci, brevemente, come sempre, prima della pausa, ancora i vostri messaggi. Vedo che continuano appunto sulla questione, sulla controversa puntata di ieri di Porta a Porta. Natasha da Prosecco che dice: qualcuno mi sa spiegare se quando l'esito del referendum potrà incidere sulle nostre tasche e se le società interessate sono italiane o meno? E qui ci vuole più tempo, Natasha, ma tu non perdere mai, a parte Effetto Notte, anche le altre trasmissioni, i giornali radio di Radio 24, perché continueremo, vi dicevo, a informarvi su questo. Emanuele, gli stessi moralisti che oggi biasimano Vespa sono quelli che stanno reggendo al moccolo a chi intende con questa scusa dell'indignazione mettere sotto tutela censori e libero giornalismo, e poi fanno tanto gli antifascisti, dice Emanuele. Lidia, ritengo veramente intollerabile che gli intervistati in realtà vadano nelle varie trasmissioni televisive per fare pubblicità ai loro libri, anche il figlio di Rina. Continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Dove siete quando mi ascoltate per radio? In che modo mi sentite? Mandate una foto che racconti come ascoltate la radio, in che maniera ascoltate la radio, mandatela a melog@radio24.it e noi la proietteremo in una notte favolosa in cui io deciderò che la radio è morta. Sabato 9 aprile a Milano, all'Unicredit Pavilion, dove parlerò dei miei 33 anni di radio, dalle 19.30 alle 20.30. Siete tutti invitati. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, voi con i vostri messaggi, col vostro ascolto, siete presenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al numero 349-238-6666 con i vostri SMS, con i vostri WhatsApp. Vedo che continuate sull'intervista di Vespa ieri a Porta, alla bufera che c'è stata su questa decisione e poi i vertici RAI oggi ascoltati dalla Commissione Antimafia. E abbiamo appena parlato adesso del referendum del 17 aprile con le posizioni per il sì e la posizione per l'astensione o per il no. Spero vi siate fatti in parte almeno un'idea per votare il 17 aprile e poi, oppure per l'astensione, dal vostro punto di vista, sì, no o astensione, poi torneremo a parlarne, così come anche gli altri giornali radio e le altre trasmissioni di Radio 24. Adesso cambiamo argomento, ritorniamo sull'inchiesta che riguarda, sempre il petrolio c'è di mezzo, ma le dimissioni, l'inchiesta che ha portato insomma le dimissioni dell'ex ministra Guidi. Intanto ancora i vostri messaggi. Claudio da Roma dice, a proposito dell'intervista Rina: bene che un mafioso parli da mafioso, più è insopportabile, più è utile. I mostri vanno lasciati esprimere affinché possano rivelarsi. Poi Enzo da Ravenna: gli italiani devono mettersi in testa che la mafia è parte del tessuto sociale, va analizzata a fondo perché sia combattuta efficacemente. Un altro messaggio: Vespa da una vita fa questo tipo di giornalismo, offrendo la sua tribuna alle varie Franzoni. Sollecito Casa Monica, dov'è la novità? Continuate con le vostre riflessioni, intanto vi riassumo brevemente quali sono le notizie più importanti. Inchiesta sul petrolio, l'ex ministra Guidi interrogata per 3 ore dai PM di Potenza. Mi hanno detto che sono parte lesa, fa sapere, tra poco ne parliamo. L'intervista di Vespa al figlio di Rina, i vertici RAI nell'audizione all'antimafia assicurano da settembre ci sarà la supervisione dei contenuti giornalistici. I timori di Draghi, l'eurozona, avverte il presidente della BCE, vulnerabile a nuovi shock, e rinnova l'allarme sui giovani disoccupati, si rischia, dice, di perdere una generazione. Il vertice su Regeni, a Roma primo giorno di confronto fra inquirenti italiani ed egiziani che portano video e tabulati, domani si replica. Lo scandalo Panama Papers, il primo ministro britannico Cameron ammette: avevo una quota nella società di mio padre ma la vendetti per 30.000 sterline prima di diventare premier. Migranti, l'Austria lancia l'allarme, 300.000 persone verso l'Italia. Finmeccanica in appello, 4 anni e mezzo all'ex presidente e amministratore delegato Orsi e 4 all'ex amministratore delegato di Augusta Westland Spagnolini, responsabili anche di corruzione internazionale. Meteo, avete sentito, ne arriva un peggioramento, piogge e crollo di temperatura anche di 8 gradi in meno, ma prossima settimana nuova ondata di caldo anomalo. Formula 1, retromarcia della FIA dal Gran Premio in Cina, tornano le vecchie qualifiche. Ci siamo quindi, come dicevo, agli sviluppi delle indagini sull'impianto lucano di Tempa Rossa. Oggi è stata una tappa importante in questa evoluzione dell'inchiesta, perché è stata sentita dai magistrati l'ex ministra Federica Guidi per 3 ore, interrogata dai magistrati di Potenza. I contenuti di questa sua deposizione sono secretati dai pubblici ministeri, però la Guidi ha fatto sapere che le hanno detto che lei è parte offesa. In ogni caso, man mano sembra che da questa inchiesta si stia delineando il ruolo dell'ex ministra, che si sarebbe mossa per agevolare le aziende del compagno, adesso a questo punto ex compagno, Gianluca Gemelli, ma si lamenta anche delle pressioni che deve subire dai colleghi in alcuni casi, per esempio parla contro il suo ex vice Claudio De Vincenti, contro il sottosegretario alla presidenza Luca Lotti, e poi dice anche delle cose non molto lusinghiere nei confronti del ministro dell'economia Padoan. Ne parliamo con Raffaella Calandra. Raffaella, questo grosso modo quello che si sa, diciamo in estrema sintesi, no? Però abbiamo detto il suo interrogatorio è stato secretato, quindi... Allora, intanto... sono due piani, diciamo, un po' diversi. Da una parte c'è stato l'interrogatorio oggi, sì, appunto, di sicuro, come dicevi, è stato secretato, come in genere si fa con gli atti che sono di una delicatezza, di una rilevanza notevole, per cui per evitare che ci sia una fuga di notizie. Dall'altra, quello a cui facevi riferimento, sono vecchie intercettazioni acquisite agli atti che vengono depositate progressivamente e che sono inserite all'interno di informative o di atti che sono i così famosi allegati alle varie all'ordinanza che ha portato agli arresti di ormai quasi 2 settimane fa. Quindi Raffaella, scusami, siccome diversi ascoltatori e ascoltatrici dicono figuriamoci se è parte offesa, se l'ha detto la Guidi, evidentemente i magistrati le avranno detto così. Allora, lei ha fatto questa nota dopo all'uscita dall'interrogatorio e questa ha una valenza giuridica ben precisa, il fatto dell'essere parte offesa. Il fatto che lei l'abbia detto, e sono le uniche dichiarazioni che lei fa filtrare come una nota, hanno, da quanto ho potuto ricostruire, una ragione ben precisa, che è la ragione di andare a fugare quel dubbio che nelle ultime ore, prima di questo interrogatorio importante, si stava alimentando, cioè il dubbio e la possibilità che l'ex ministra, entrata nell'interrogatorio, entrata in questo confronto con il PM da persona informata sui fatti, ne potesse uscire da indagata. In realtà così non è, e questo in realtà fin dall'inizio, chi ha letto gli atti e sentendo le persone che hanno lavorato su questa inchiesta, è stato possibile ricostruirlo, perché se ci fossero stati elementi raccolti dagli investigatori che facevano pensare che il ruolo della ministra fosse andato al di là, diciamo, e quindi fino a commettere degli illeciti penali, questo, diciamo, sarebbe stato tratteggiato fin dall'inizio in modo un po' più chiaro. Nel fatto che lei mi dice, pare, che perdonami, è persona offesa, scusami se ti interrompo, sì, Roberta, ha una ragione ben precisa, cioè significa giuridicamente che in un eventuale futuro processo lei potrebbe anche arrivare a chiedere risarcimenti a quelli che definisce il quartierino dei furbetti. Vuol dire che lei quelle pressioni le ha subite, ma che da parte sua non ha fatto nulla, non le ha agevolati. Ecco, questo è quello che giuridicamente significa. Altro è il discorso dell'opportunità politica, che infatti l'ha già portata alle dimissioni. Ed è infatti quello che dice Renzi. Sentiamolo in questo passaggio oggi. Le opposizioni vogliono sempre che tutto il governo si dimetta, è il loro mestiere. Noi non li accontentiamo, perché pensiamo che l'obiettivo del governo sia quello di fare le cose. Certo, l'ex ministro Guidi ha sbagliato, non c'è niente di illecito, ma ha fatto un errore e ne ha preso atto. Finalmente in Italia è arrivato il momento in cui chi sbaglia va a casa e lascia la poltrona. Così ha sottolineato Renzi. Raffaella, senti, per chiudere, poi si parla di questa esistenza di un dossier con delle foto compromettenti contro il sottosegretario alla presidenza Delrio. Sì. Allora, che il quale ministro Delrio ha fatto sapere che ha presentato un esposto in procura e che non ha mai ricevuto ricatti. È una storia che risale a qualche anno fa, di cui si era in qualche modo già parlato. È una storia che è venuta fuori quando ci furono gli arresti nel cosiddetto maxi processo Emilia, quello che decapitò le cosche di 'Ndrangheta in Emilia Romagna. Si parlò anche a quel punto, anche allora, di elementi che potessero scalfire la figura, il ruolo dell'allora sindaco di Reggio Emilia, ossia Graziano Delrio, e già in quella situazione venne fuori che invece non c'era alcun tipo di elemento tutto a carico di Delrio. Quello che invece in questo tipo di conversazioni raccolte nell'intercettazione lucana sta venendo fuori è che racconta uno degli indagati allo stesso Gemelli che una fonte, lui dice uno dei miei migliori amici, un carabiniere, gli avrebbe detto che sarebbe stato pronto a portargli una raccolta di foto dello stesso Delrio con boss Cutresi, cioè della famiglia dei Cutresi appunto di cui si era parlato in questa inchiesta sulla 'Ndrangheta, e adesso bisognerà capire se un tentativo diciamo di ricatto ai danni di Delrio ci sia stato, anche se lui lo esclude già. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao, buona serata e direi sì, la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano, e seguite anche le notizie oltre agli approfondimenti. Ve le ricordo, l'ex ministra Guidi oggi è stata sentita dai magistrati a Potenza e ha detto ho risposto e sono parte offesa. E poi al via il vertice sul caso Regeni, oggi sono incontrati inquirenti italiani e egiziani che hanno portato video e tabulati, e domani c'è un'altra giornata d'incontro. Bufera, Rina sulla Rai, da settembre assicurano i vertici dell'azienda, ci sarà una supervisione dei contenuti giornalistici. E Vienna, l'allarme di Vienna nei confronti dell'Italia, dice attenzione, sono in arrivo 330.000 persone, chiudiamo il Brennero. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Nome? Michela Giuffrida. Età? 52. Nata? Catania. Eletta in? Sicilia e Sardegna. Con quanti voti? Più di 93.000. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Gruppo dei Socialisti e Democratici Europei. Segni particolari? Sono un capricorno. Quante lingue parla? 2. Benvenuta nella Youzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Politica di coesione e sviluppo regionale, una bella invenzione, ma è efficace? Certamente sì, perché l'Europa destina le politiche di coesione, ma appunto ha una parte importante del suo bilancio e serve proprio a colmare il divario tra le regioni diverse e tra stati e stati. Questi soldi, se ben utilizzati, creano sviluppo e occupazione. Cosa blocca l'accesso ai fondi? Beh, essenzialmente due problematiche. La prima, una semplificazione che deve ancora arrivare, che sta molto nelle promesse ma che ancora soffre di un'eccessiva burocrazia. E la seconda, a volte insormontabile, penso alle regioni del sud Italia, il necessario cofinanziamento statale e regionale che oggi è più che mai proibitivo proprio per gli enti locali. Come si conciliano realtà specifiche, le regioni, con la dimensione europea? Ma le regioni sono proprio la specificità dell'Europa, sono l'essenza stessa dell'Europa, il suo valore aggiunto. Le politiche di coesione infatti nascono proprio per questo, per favorire questa armonizzazione tra regioni e Europa. Immigrazione, Sicilia in prima linea e l'Europa? La Sicilia è stato un esempio, io dico per il mondo. La Sicilia ha dimostrato di essere veramente una regione che ha accolto, che ha donato con il cuore. L'Europa deve fare lo stesso, deve al più presto adottare delle azioni perché si governino i flussi migratori. È l'unico sistema, governarli. Quindi tre azioni efficaci per gestire a livello europeo il fenomeno dell'immigrazione. Prima di tutto una politica di accoglienza che sia condivisa, è quello che ancora manca, che è mancato fino ad oggi. E poi il riconoscimento dell'effettivo diritto di chi chiede asilo, di chi scappa, fugge da guerre, da persecuzioni, e nello stesso tempo la necessaria fermezza per dire no e rispedire a casa chi non ha diritto a questa accoglienza. Un voto all'Europa da 1 a 10. Beh, direi, volendo essere generosi, 6,5, perché deve fare di più. La sua battaglia vinta? La mia battaglia vinta è stata appena vinta, proprio il mese scorso, il riconoscimento della condizione di insularità per le isole dell'Europa. La mia è una regione che ha lottato per anni per avere questo riconoscimento, finalmente è arrivato. Michela Giuffrida, tra un anno? Tra un anno continuerò a fare quello che faccio, con ulteriore, se possibile, convinzione e tenacia. Sono una convinta europeista e so che senza Europa non si va da nessuna parte. L'Europa è veramente la nostra carta vincente. Youzone, incontro con gli europarlamentari, in collaborazione con Euronet Plus. E vi ricordo che c'è il sondaggio sul sito di radio24.it: perché l'Europa è diventata così impopolare. Votate, votate, votate. E intanto i vostri messaggi, sempre sull'intervista al figlio di Rina. Roberto da Modena dice: scusi, ma tutte quelle polemiche con il buon Enzo Biagi, che ha intervistato fior di mafiosi, criminali, da Buscetta a Liggio a Salvo Lima, eccetera, dice Roberto. E poi invece Andrea da Bologna: la legge in questo modo, il rovescio della medaglia, il mafioso che vive contro le istituzioni si è dovuto piegare e adeguare alla legalità, ovvero la televisione di Stato, per poter parlare. Questa è una vittoria della legalità e dello Stato, un trionfo, dice Andrea, legge in questo modo. Invece, come legge il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore? Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. I due allarmi piuttosto inquietanti del presidente della Banca Centrale Europea Draghi, oggi nella prefazione del rapporto annuale 2015 sulle attività della BCE, ha detto: c'è dell'incertezza per le prospettive dell'economia mondiale e di quella europea, e non si sa se l'Europa possa essere in grado di affrontare altri eventuali shock. E poi ha detto: c'è il rischio di una lost generation, parlando della disoccupazione giovanile, che è molto grave in tutta Europa. Beh sì, era da un po' che la BCE non lanciava messaggi così netti e ahimè così allarmanti. Devo dire, inquietante il fatto che ammettano tranquillamente che l'Europa non sarebbe in grado di sopportare nuovi shock. Non è un linguaggio proprio dei banchieri centrali di esplicitare in modo così lampante i possibili pericoli per l'intera area dell'Eurozona. Già. Però è molto importante, perché ha dato un messaggio forte la BCE, soprattutto alla Germania, tanto per cambiare, perché deve sbrigarsi a togliere il veto che oggi sta mettendo al perfezionamento dell'unione bancaria, che sarebbe il nuovo passo avanti della condivisione economica di questa nuova disastrata eurozona, e perché la Germania dice no alla condivisione della garanzia sui depositi per i conti correnti europei che arrivino fino a 100.000 euro. Questo la Germania non lo vuole fare, tutti gli altri paesi sì, stanno premendo molto perché questo negoziato possa arrivare a buon fine, ma si è incagliato nelle sedi europee e non sta andando avanti, e questo è un bruttissimo segnale per tutto il mondo delle banche, che non a caso anche oggi hanno sofferto parecchio le banche italiane con la brutta performance di Piazza degli Affari, che è la risposta evidentemente a questi allarmi che ha lanciato la BCE. Per quanto riguarda l'altro allarme, ancora più sconfortante, diciamo la verità, della Lost Generation, è davvero paradossale che, come ha detto oggi a Lisbona lo stesso Draghi, che la miglior generazione quanto a livello di istruzione, a livello di scolarità e quindi a quanto a valorizzazione del capitale umano, rischi di essere davvero quella più penalizzata sul versante della disoccupazione e addirittura della generazione che né studia né lavora. Quindi la generazione completamente sfiduciata. Questa forse è proprio la cosa più frustrante per l'Europa, non saper dare una risposta che vuol dire garantire un percorso per il futuro per questi giovani, che sono appunto la generazione migliore, che rischia di essere la più penalizzata. Questo è davvero un messaggio negativo, profondamente depressivo, diciamo così, e malinconico, se posso usare un termine sentimentale applicato al discorso di un banchiere centrale, che è palesemente inusuale. Però davvero oggi i messaggi sono stati forti, molto allarmanti e molto preoccupati per chi si sente effettivamente cittadino europeo. Hai ragione, quindi prospettive non rose, diciamo, l'ottimismo al momento non può raggiungere, diciamo, livelli confortanti. Grazie ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Continuano i vostri messaggi. Ciao Alberto, però mi sa che ci dobbiamo proprio lasciare a questo punto, e poi torno come sempre per aggiornarvi alle 22.